Come molti, sono sempre rimasto affascinato dalla descrizione biblica della persona di Mosè. E non è certamente una ragione opinabile, perché dopo la sua morte, quasi a modo di epigrafe, me lo fu scritto quanto segue. Non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale l'Eterno trattava faccia a faccia, in tutti i segni e prodigi che l'Eterno lo mandò a fare nel paese d'Egitto davanti a Faraone, davanti a tutti i suoi servi e in tutto il suo paese, in tutta quella grande potenza e in tutte le cose grandi e tremende che Mosè compì davanti agli occhi di tutto Israele. Deuteronomio 34.1012. Mosè fu un grande profeta, un grande conduttore, un uomo che aveva un grande privilegio. Vedeva il suo Dio ogni giorno e con lui parlava faccia a faccia. Chi di noi non nutre anche a livello embrionale un piccolo senso di sana invidia per aver vissuto una simile vita e aver avuto certi privilegi? Eppure, se questo può essere di incoraggiamento per noi per fare grandi esperienze per Dio e con Dio, Mosè non è nato già dotato per vivere una vita come ha vissuto, ma aveva tutti i presupposti per rimanere un oscuro ebreo come tanti altri. Anzi, Mosè aveva almeno 7 ragioni valide per non diventare quello che divenne, ragioni che oggi potremmo definire scuse per non compiere la volontà di Dio, scuse che potrebbero essere anche le nostre. Da dove si deduce una simile opinione? Lo si deduce quando l'Eterno lo chiama per volere fare di lui l'uomo che poi è diventato. Nei suoi piani divini, l'Eterno aveva deciso che il popolo di Israele diventasse schiavo del popolo egiziano per più di 400 anni, e allo scadere del tempo, decise di scegliere un uomo per liberare gli israeliti dalla schiavitù di Egitto. Si scelse uno che aveva vissuto 40 anni alla corte del faraone, e altri 40 come un fuggiasco nel paese di Madian, dove si trova la penisola del Sinai. Quest'uomo si chiamava Mosè, perché era stato salvato dalle acque e stava pascolando il gregge di suo suocero. L'Eterno si fece vedere da Mosè avvolto in una fiamma di fuoco e gli disse: «Or, dunque vieni e io ti manderò dal faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto». Ma Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone per far uscire i figli di Israele dall'Egitto?» Dio disse: «Io sarò con te». Esodo 3.1012. La prima ragione che Mosè addusse per non compiere la volontà di Dio era che egli non si riteneva qualificato per compiere il volere dell'Eterno. Mosè aveva più ragione, ma l'Eterno gli disse: «Io sarò con te». Così colui che ha posto fede in Cristo, se ha una chiamata e la adempie, non lo fa perché si sente qualificato o degno, ma svolgerà il suo compito perché Dio lo ha mandato e perché Cristo Gesù è con lui nel suo compito. Alla chiamata dell'Eterno, Mosè addusse una seconda scusa per non ubbidire: non aveva il messaggio da dare. 3.1.3.15. Allora Mosè disse a Dio: «Ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, che Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi». È veramente difficile svolgere una missione e non conoscerne i contenuti. Questo spiega perché Mosè non voleva essere uno strumento per liberare un popolo di più di 1 milione di persone. Giustamente il popolo avrebbe voluto conoscere chi mandava Mosè, e Mosè si premunisce chiedendo chi è che lo manda. Nel chiedere il nome all'Eterno, Mosè, in armonia con la cultura ebraica, non chiedeva come si chiamava, ma gli chiedeva le sue caratteristiche personali, e l'Eterno gli risponde di essere colui che è attivamente presente, e cioè colui che era, che è e che sarà. La seconda scusa di Mosè può farci comprendere che il credente non deve accontentarsi di svolgere il suo compito tanto per svolgerlo, ma deve essere consapevole della chiamata e a cosa va incontro. Una terza scusa di Mosè per non adempiere alla volontà di Dio è che egli non aveva autorità. 4.17. Mosè rispose e disse: «Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso». L'Eterno quindi gli disse: «Che cos è quello che hai in mano?» Egli rispose un bastone. L'Eterno disse, gettalo a terra. Egli lo gettò a terra. Ed esso diventò un serpente, davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano e lo prese, e nella sua mano esso divenne un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe ti è apparso. I miracoli che Mosè faceva dimostravano che era stato mandato dall'Eterno, come del resto una vita santa e vissuta all'altezza del compito, dimostrano che la persona è stata chiamata da Dio. Un uomo chiamato a predicare vivrà il messaggio che vive, mentre chi compie opere di bene edificherà il prossimo. Come Mosè cercava autorità nella sua chiamata, così chi svolge un compito da parte di Dio deve avere autorità su quell'incarico. Mosè era un uomo che non si lasciava convincere tanto facilmente e perciò avanzò una quarta scusa per non ubbidire all'Eterno, aveva dei limiti. 4.1012. Allora Mosè disse all'Eterno, ahimè Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché sono tardo di parole e di lì. L'Eterno gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende uno muto, sordo, vedente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Or, dunque va, e io sarò con la tua bocca, e ti insegnerò ciò che dovrai dire. La quarta scusa di Mosè era più che lecita. Egli doveva parlare al Faraone, e aveva proprio dei difetti nella parola. Se l'Eterno gli avesse comandato di fare il pastore o uccidere un leone, non era indispensabile parlare bene, ma dato che doveva parlare, per Mosè era indispensabile essere sciolto nella parola. Ma l'Eterno gli ribatte senza mezzi termini che lui sapeva ciò che stava facendo, e se lo chiamava con quel limite, significava che andava bene così. Questa è una lezione per chi ha una chiamata da parte di Dio. Noi vorremmo sempre essere all'altezza di tutto. Vorremmo essere migliori, essere quello che non siamo. Ma l'importante non è riuscire sempre ad essere il primo della classe, bensì compiere la volontà di Dio al massimo delle nostre capacità. Mosè non era solo un uomo non tanto facile da convincere, ma era anche cocciuto. Infatti avanza una quinta scusa per non ubbidire all'Eterno, e cioè non sapeva adattarsi. 4.1.13. Ma Mosè disse, «Deh, Signore manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè, ed egli disse, «Non cicche, è forse Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. Ora ecco, egli esce a incontrarti. Come ti vedrà, si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai, e metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli sarà il tuo portavoce al popolo. Così egli sarà per te la bocca, e tu sarai per lui come Dio. Or prendi in mano questo bastone col quale farai i prodigi». Allora Mosè se ne andò. Se Mosè era determinato, l'Eterno lo era ancora di più, e lascia a Mosè una possibilità di compromesso. Se non parli bene, parla bene tuo fratello Aronne, e perciò voi due ora andate e fate ciò che vi dico. Questa fu l'ultima proposta dell'Eterno a favore di Mosè, e Mosè partì anche se forse non era del tutto convinto. Questa è la realtà di alcuni figli di Dio. Si sentono chiamati ad un compito, ma in fondo al loro cuore possono ancora esserci alcuni dubbi. Dubitare non è un errore. Lo è quando si continua a dubitare davanti a delle prove certe, perciò, come Mosè, a volte occorrono altre esperienze, come a Mosè. Una sesta scusa di Mosè per non ubbidire alla chiamata era che non vedeva dei risultati. 5.1.23. Dopo che Mosè ebbe parlato al Faraone, questo mise in difficoltà i capisquadra. Così leggiamo il seguito del racconto. 5.1.9.23. I capisquadra dei figli di Israele si resero conto di trovarsi nei guai, perché veniva loro detto, «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni prescritto giorno per giorno». Poi, come uscivano dal Faraone, incontrarono Mosè e Aronne, che stavano ad aspettarli. E dissero loro: L'Eterno volga lo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete resi odiosi agli occhi del Faraone e agli occhi dei suoi servi nel mettere nelle loro mani la spada per ucciderci. Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse: Signore, perché hai messo questo popolo nei guai? Perché dunque mi hai mandato? Poiché, da quando sono andato dal Faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Mosè rimprovera l'Eterno, perché, non vedendo dei risultati, secondo il suo punto di vista l'Eterno non aveva mantenuto le promesse. Questo a volte succede a chi intraprendere un lavoro per Cristo. Si chiede, se veramente è chiamato, ma anche l'apparente insuccesso diventa una sfida a proseguire. Infine Mosè aveva una settima scusa valida per non rimanere costante alla chiamata. Non era stato ascoltato neppure dal suo popolo. 6, 9-11. Così parlò Mosè ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè, per l'angoscia di spirito e per la dura schiavitù. A volte si sopporta il rifiuto da parte degli increduli, ma non si è pronti ad accettare l'incredulità da coloro che fanno parte della famiglia umana e spirituale. Mosè provò questa totale solitudine perché potesse trovare ogni sostegno nel suo Dio. Così è per chi lavora per Cristo. Prima o poi sperimenta di non essere compreso fino in fondo, realizza che non solo gli increduli sono contro, ma anche quelli di casa sua. In questo modo chi serve Cristo potrebbe anche avere le 7 scuse di Mosè, e cioè non si ritiene qualificato, non sa cosa dire, non vede in lui nessuna autorità, trova dei limiti, non è incline a adattarsi, non vede dei risultati, non è ascoltato neppure dai suoi, eppure come Mosè dovrà perseverare come vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11.27. Il successo di ogni opera svolta per Dio sta nel tenere costantemente fissi la mente e gli occhi su Cristo, per quello che Egli è, per quello che ha fatto, per quello che ha promesso. Se vi sono anche 7 scuse per fermarci, vi sono però 70 volte 7 motivi per rimanere costanti nel servire Cristo. Aprile 2006, Ellero,